Bene, proprio ieri il governo britannico ha pubblicato il primo libro verde per l'intero settore dell'industria creativa, cioè un piano strategico per dare una spinta a questo segmento che è molto importante, ricomprende la musica, il cinema, l'architettura e anche il broadband veloce, appunto. In tutto è un settore che vale 90 miliardi di euro con 2 milioni di addetti e sta crescendo molto velocemente, quindi il governo lo vuole spingere ancora di più e a partire proprio dalla difesa dei diritti d'autore e delle opere dell'ingegno che entrano nel mercato di internet. Quindi ieri nel piano che è stato presentato ha annunciato che ad aprile di quest'anno sarà emanata una nuova legge e dunque nero su bianco tutti i provider internet saranno obbligati a tagliare completamente l'accesso internet ai propri utenti che scaricano i file illegalmente. Questa è una misura piuttosto forte se si pensa che nel Regno Unito ci sono circa 6 milioni di persone all'anno che scaricano musica o video in modo illegale. Bisogna dire però che in questo libro verde il governo ha sottolineato che prima di passare a queste misure forti, quindi attraverso una legge, preferisce che siano gli stessi provider a introdurre volontariamente delle regole contro la pirateria internet per gli utenti. E quindi il ministro della Cultura ha detto che da qui ad aprile è disposto anche a sospendere questa fase legislativa se i provider dei servizi internet riusciranno a trovare degli accordi con le stesse compagnie che detengono i diritti di autore di video e di canzoni, ad esempio, e questo per fermare appunto i download illegali da parte degli utenti.